5A. Ascolta e rispondi. Hai già studiato questa lezione? Sì, l'ho già studiata. Hai già finito la composizione? Sì, l'ho già finita. Hai già salutato la signora? Sì, l'ho già salutata. Hai già comprato una nuova macchina? Sì, l'ho già comprata. Hai già preparato la valigia? Sì, l'ho già preparata. Hai già visitato la città? Sì, l'ho già visitata. Hai già avvertito Laura? Sì, l'ho già avvertita. Hai già completato la domanda? Sì, l'ho già completata.